dell'altra Europa. 8 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia, siamo in diretta con l'altra Europa, l'appuntamento settimanale per raccontare l'Europa delle persone, delle storie, delle possibilità e delle opportunità, l'Europa che ci piace, l'Europa che diventa una grande palestra. E oggi partiamo dal volontariato. I can change the world with my hands, make a better place. È il Festival del Volontariato, 3 giorni a Lucca, Lucca che diventa la capitale di questa dimensione, che è una dimensione sociale fondamentale. Abbiamo citato prima l'Europa come grande palestra, perché l'Europa è il centro di questa festa del volontariato, l'Europa con gli scambi, l'Europa con la cooperazione e la mobilità. E proprio per sottolineare l'importanza di questo tipo di esperienza, tra gli ospiti del Festival del Volontariato c'è anche il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Buongiorno Ministro. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Uno pensa alla scuola, poi c'è l'altra scuola, quindi la possibilità magari di studiare un po' meno, ma mettersi in gioco, il volontariato, un'esperienza fondamentale in Italia e all'estero, vero? Ma guardi, qui a Lucca, io da lucchese sono anche orgogliosa di questa affermazione del Festival del Volontariato, che ormai è una lunga tradizione e che, come lei giustamente ricordato, fa di Lucca da molti anni capitale assoluta di questa cultura, che è una cultura della tolleranza, del rispetto, dell'accettazione di un'idea di fondo, che è quella di dare un po' di sé, un po' del proprio tempo, no? della propria disponibilità a servizio degli altri. E la scuola, come le associazioni che fanno questo nell'ambito complesso eterogeneo del mondo del volontariato, ha tra i suoi obiettivi fondamentalmente anche questo. Mm-hmm. E io credo che i ragazzi che sono riuniti qui oggi, io devo ancora incontrarli, lo farò tra pochi minuti, hanno lavorato a vari temi, dal contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che purtroppo è un fenomeno in crescita, su cui anche il nostro ministero è impegnato in prima linea, la consapevolezza che certe forme di gioco, di ludomania, sono assolutamente letali per la corretta crescita della personalità e dei giovani, ma che poi possono diventare peggio di certe forme di dipendenza, no? da sostanze. E per l'affermazione di una cultura della legalità e quindi la presa di coscienza che si può far bene, si deve far bene, non solo rispettando leggi severe, che è giusto che ci siano, ma soprattutto rispettando le leggi interiori, no? Certo. Che dobbiamo maturare dentro di noi fin da piccoli, appunto. Ecco, tutto questo è il nostro contributo a questa grande manifestazione. Ministro, lei è da sempre una forte sostenitrice, anche prima di essere ministro, degli scambi all'estero. Uno pensa agli scambi all'estero, pensa subito all'Erasmus, pensa subito al periodo universitario. Si fa abbastanza invece per favorire questa esperienza negli ordini più bassi, penso per esempio alle scuole superiori? Ma si è iniziato già da alcuni anni nell'ambito della mobilità finanziata e favorita dalla Commissione Europea con i programmi come Enius, con i programmi Socrates, però adesso c'è un salto di qualità anche sotto questo aspetto, perché c'è un grande ombrello che si chiama Erasmus Plus e che è un ambizioso programma di mobilità che vorrà portare 5 milioni di studenti in giro per l'Europa a conoscere appunto altri paesi e a capire come in fondo siamo veramente dentro un unico spazio della conoscenza e della cultura dei diritti e soprattutto di quella pace che l'Europa ci ha donato 70 anni fa e che dobbiamo tenere molto molto stretta e consolidare. Io credo che anche a partire dalla scuola fare un'esperienza all'estero possa essere una forma di crescita per i ragazzi molto molto importante, non solo per la lingua, guardi, ma anche certo. per quello che andando in un altro paese si scopre e si impara ad apprezzare. Quindi se avesse la possibilità domani partirebbe per l'Erasmus? Sì, francamente, io ho avuto la sfortuna anagrafica di laurearmi l'anno prima della partenza ufficiale nel 1986 del programma Erasmus, però poi ho recuperato la vita, a volte generosa, facendo un dottorato di ricerca internazionale, quindi certo. C'è sempre una possibilità. La lascio ai ragazzi, la riporto per un Grazie. Attimo con un'ultima domanda sull'attualità, questo sciopero del 5 maggio, qual è stata la prima reazione a caldo, Ministro? Ma io, guardi, qui parlavo prima della parola magica che dobbiamo cercare di reintrodurre nella nostra società, anche in quella italiana, che è rispetto. Io rispetto ovviamente, come è naturale che sia, per uno sciopero che è forma legittima di manifestazione di dissenso, però sto insieme al governo, insieme al Presidente del Consiglio e al Parlamento, cercando di costruire il massimo consenso intorno a una riforma che sta portando un grande paradigma culturale diverso nella nostra scuola, e io credo che quando verrà conosciuto anche nei dettagli sarà apprezzato sempre più. Va bene, grazie, speriamo nel dialogo. Buona giornata, ci saluti ragazzi. Salve. Buona giornata, grazie. Il ministro Stefania Giannini, ospite all'Altra Europa, appunto in occasione del Festival del Volontariato. Vi do qualche coordinata: festivaldelvolontariato.it è il sito per conoscere l'intero programma. C'è tanta Europa, quindi vi consigliamo di visitare il sito, ma anche di partecipare alla festa, cercare tutti i workshop. Ora ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. AAA, l'Unione cerca nuovi funzionari. L'Ufficio Europeo di Selezione del Personale EPSO organizza un concorso generale per 149 laureati, dal quale le istituzioni comunitarie attingeranno per l'assunzione di nuovi funzionari amministratori. Gli esami consistono in 3 diverse prove scritte e orali. Per partecipare è necessario avere almeno una laurea triennale e conoscere una seconda lingua a livello B2. I candidati che supereranno i test di valutazione potranno lavorare nelle principali istituzioni europee. Per partecipare occorre iscriversi online collegandosi al sito dell'EPSO jobs.eu-careers.eu entro e non oltre mezzogiorno del 21 aprile. L'Altra Europa. Is Instagram. I like that there's no specific way they use the internet. I watch videos, play games, and chat to my friends. You can catch up on the shows you've missed and play games. If you're on holiday, you can call back home and see maybe. Quelli che state ascoltando sono alcuni studenti, torniamo a scuola, studenti inglesi che parlano del loro rapporto con i social network, un video che è stato realizzato in occasione del Safer Internet Day. Anche prima il ministro Stefania Giannini ha citato il drammatico problema del cyberbullismo. E questa settimana sono state presentate al Senato le nuove linee di orientamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. E la Commissione europea gioca un ruolo fondamentale in questa difficile battaglia, e lo fa grazie alla costituzione di un Cyber Internet Center, che è questo istituto del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea a cui ha aderito il MIUR, che è proprio un organo centrale per cercare di definire quelle che possono essere le linee, le coordinate, la possibilità di fare un fronte comune. E con noi c'è il portavoce responsabile dei contenuti di scuola.net, che è un po' il braccio operativo in Italia del SIT, così si chiama, il Safer Internet Center. Diamo il benvenuto a Daniele Grassucci. Ciao Daniele. Ciao Federico, buongiorno. Ho spiegato bene, no, il rapporto tra scuola net, tra scuola e il SIC? Siete partecipate a questo, è qualcosa di più di un tavolo di coordinamento, mi pare. Assolutamente, il SIC in realtà è un consorzio di cui noi facciamo parte, sì, ci siamo uniti in questo biennio 2015-2016, ma però dobbiamo ricordare che già esisteva dal 2012 con un partenariato molto importante, perché hai ricordato bene, c'è il MIUR che è il capofila sostanzialmente di questo partenariato, ma all'interno abbiamo anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e organizzazioni importanti come Save the Children e Telefono Azzurro e il Movimento del Cittadino cittadino, cioè sono tutte in qualche modo organizzazioni che in passato erano coinvolte all'interno di attività di prevenzione del cyberbullismo, di diffusione della cultura di un internet sicuro, però ecco, mai come in questa occasione si sono ritrovate tutte insieme a far fronte comune. Quindi ecco, noi siamo un nuovo entrato in questo consorzio, ecco, però ci fa piacere dare il nostro contributo in qualche modo di portare che ogni mese si interfaccia con 3 milioni di ragazzi. Assolutamente. Li conosciamo e quindi possiamo dare una mano a fare da ponte sostanzialmente. Quindi, come hai ricordato bene te, l'intervento della Commissione Europea è stato fondamentale, perché ecco, non è che ci accorgiamo oggi che c'è il cyberbullismo o che bisogna promuovere un internet più sicuro. Da 10 anni insomma che ormai siamo nel settore e sappiamo che ci sono questi progetti, però fino ad ora non erano mai stati messi a sistema, c'erano vari partner che magari si attivavano per un anno o due e poi smettevano, insomma ognuno lavorava un po' all'interno del suo orticello. L'input dato dalla Commissione Europea attraverso un cofinanziamento è stato quello di mettersi a sistema, di unirsi, di fare fronte comune e di mettere insieme tutte le competenze e le risorse, perché la navigazione sicura in internet non è solo un fattore tecnico, quindi dico installo il firewall piuttosto che uso quel software o quella piattaforma, è anche un discorso di psicologia, di relazioni, quindi c'è bisogno di di molteplici competenze e solo un partenariato forte e ampio come questo qua può dare una mano. Daniele, ma ci sono approcci culturali diversi da paese a paese? Ma assolutamente, ad esempio parlo proprio dal punto di vista comunicativo. Sì. Negli altri paesi, ad esempio, le campagne di comunicazione che vengono realizzate all'interno di questi consorzi sono molto più di impatto, perché negli altri paesi ecco, si rappresenta la realtà nuda e cruda così com'è. Da noi, ad esempio, c'è un po' di ritrosia a dare dei messaggi troppo forti, ma non è solo riguardo al cyberbullismo, all'internet sicuro, parliamo anche ad esempio della sicurezza stradale. Ecco, noi non vediamo difficilmente degli spot truculenti come avviene invece negli altri paesi europei, in cui si fanno vedere proprio i morti, il sangue, per far capire che se si è coinvolti in un incidente stradale si può morire. Ecco, anche qua purtroppo si può morire, perché sappiamo che ci sono stati dei casi di suicidio. Certo. Di ragazzi che sono stati istigati proprio dalle offese che hanno ricevuto online, perché il problema poi del cyberbullismo è questo, che non è la forma di bullismo preponderante. Abbiamo fatto proprio una ricerca presentata lunedì, abbiamo scoperto che solamente il 13% dei casi di bullismo appartiene all'universo del cyberspazio. Però tuttavia in questi casi i ragazzi sono soggetti a un fenomeno che non ha né tempo né luogo, perché nel bullismo tradizionale c'è un evento, c'è un momento che tendenzialmente è quello della scuola, poi il ragazzo torna a casa e per qualche ora sta in pace, mentre online in ogni momento si è connessi, quindi in ogni momento si è esposti a questo tipo di fenomeno. Certo. Scuola.net è il sito di riferimento, saferinternet.it, e poi c'è anche questo generazioniconnesse.it, questo portale, di cosa si tratta? Assolutamente, in realtà Generazioni Connesse è la denominazione italiana del Safer Internet Center. Perfetto. quindi sostanzialmente sono la stessa cosa. Generazioni Connesse in qualche modo è un hub di contenuti che sarà il cuore del progetto per questo prossimo biennio, quindi diventerà un riferimento per le scuole, per le famiglie, per gli studenti. Grazie proprio a questo portale si potranno realizzare tutta una serie di questionari per monitorare la situazione delle scuole, perché è molto importante in questo progetto, oltre a fare delle grandi campagne di comunicazione, e in questo sappiamo di poter contare attraverso l'advisory board del contributo di realtà importanti come Google, Facebook, Mediaset, Sky, tutte le telco come ad esempio Vodafone, Wind, Telecom, insomma questi grossi nomi fanno parte comunque di questo organo che aiuta il Safer Internet Center ad esplicare la propria azione. Però poi ecco, si andrà nelle scuole, e nelle scuole si andrà dopo aver fatto una campagna di monitoraggio, quindi verrà chiesta alle singole scuole attraverso dei questionari online di raccontare le politiche di prevenzione rispetto al cyberbullismo, e nelle scuole più problematiche verrà fatta formazione proprio in sede, mentre in quelle meno problematiche o comunque in cui le cose vanno bene verranno forniti attraverso la piattaforma online degli strumenti per potenziare o correggere eventuali criticità. Perfetto, grazie davvero Daniele, ci ritroveremo sicuramente qui per raccontare un po' lo sviluppo dell'intero progetto, sempre un po' in respiro europeo, ma credo che sia fondamentale per quel fronte comune di cui abbiamo detto poco fa. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Europost-it. 1,5 milioni di occasioni europee. Cercate un lavoro in Europa? Eures, il portale gratuito dell'Unione Europea, può essere un valido alleato. Oltre 1,5 milioni di opportunità, 850 consulenti, 32 paesi diversi. Sono i numeri dello European Employment Services, la rete di cooperazione che facilita la circolazione dei lavoratori all'interno dello spazio economico europeo. Ad oggi sono oltre 30,000 gli italiani che lo usano abitualmente per trovare offerte di lavoro, ma anche indicazioni su come trasferirsi per brevi periodi. I principali obiettivi di Eures sono informare, orientare e consigliare i lavoratori candidati alla mobilità. Cosa aspettate? Collegatevi subito al portale ec.europa.eu/Eures. Professor Ribaldini, ci vuole fare una lezione sul brano appena ascoltato? Buongiorno a tutti, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Intanto vorrei riportare le cose sul pianeta dove stanno. Io non sono professore, purtroppo, magari tra qualche anno, però ti ringrazio della stima. E questo chiaramente era Burn dei Deep Purple dall'album... Anche il professore, anche se non è un professore, si emoziona. Diamo il benvenuto a Paolo Ribaldini, dottorando in musicologia presso l'Università di Helsinki. Allora, la storia di Paolo, e l'ho voluto ospite un po' per anche l'aspetto curioso di cui parleremo fra pochissimo, ma poi perché è un esempio di cosa significa l'Europa unita, la possibilità di poter studiare all'estero, di viaggiare, magari non riuscire a realizzare i propri sogni giocando in casa, però appunto avere l'occasione di muoversi grazie anche ai finanziamenti europei e alle possibilità di studio. Paolo, tu sei originario di Mantova, hai frequentato il conservatorio a Mantova, a Verona invece ti sei laureato in filosofia, stai a Helsinki da 2 anni e mezzo per un dottorato e adesso hai organizzato questa prima summer school, se non erro una sorta di cattedra sullo studio dell'heavy metal. È un po' questa la tua storia? Sì, esattamente, questo corso che terrò alla summer school in agosto è un progetto pilota, chiaramente è la prima volta che viene tenuto a Helsinki. E io spero chiaramente che l'affluenza sia sufficiente per poterlo poi riproporre nei prossimi anni e farlo diventare un appuntamento sempre più focalizzato su nuove problematiche, sempre più ben accetto presso la comunità degli studenti e anche la comunità accademica. Certo, ma scusa, qual è il percorso che si fa dal conservatorio di Mantova a heavy metal? Dove è stata la deviazione che ti ha portato appunto ad approfondire heavy metal? Beh, in realtà c'è da dire che heavy metal è molto più parente della musica classica di quanto non si pensi. Direi che tra i generi di musica popular è uno sicuramente dei più vicini alla tradizione classica. Quindi in realtà il passo è stato molto più breve di quanto si possa pensare. Io ho cominciato ad ascoltare heavy metal attorno ai 16-17 anni, quando ero già chiaramente studente del conservatorio, grazie ad alcuni compagni di scuola che passavano CD sotto banco nelle ore un po' più noiose. Sì. E quindi questo è stato il mio modo di avvicinarmi a questo genere musicale. Ho capito. Paolo, rimani lì, ci fermiamo un attimo, la pubblicità, poi rientriamo con te, così continuiamo a raccontare la tua storia. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, Euronet Plus R24, se volete trovarci anche sui social network, Twitter e Facebook, oppure sui miei account personali, @ Federico Taddia. Ancora euronetplus.eu è il portale del network, tante inchieste, tante notizie, in tante lingue diverse. Siamo a Helsinki, siamo in Finlandia, siamo con la storia di Paolo Ribaldini, dottorando in musicologia presso l'Università di Helsinki, appunto, e si è inventato, ideato questa sorta di cattedra, questa lezione, questo ciclo di lezioni universitarie nella Summer School sull'heavy metal. Paolo, ma è vero che hai partecipato anche a The Voice in Finlandia? Sì, sì, è vero, confesso. In qualità di? Cantante. Ah, perché sei anche cantante in tutto ciò? Cioè, io ci provo, almeno. Cioè, al conservatorio facevi canto o facevi strumento? No, io ho suonato 14 anni il violino. Ho capito, e com'è andata The Voice? Ma direi che è andata abbastanza bene, sono arrivato al secondo live nel team di Tarja Turunen. E nonostante io non sia arrivato fino in fondo, ieri c'è stata la finale e la finalista del nostro team ha vinto, quindi sono molto contento. Okay, sento questa vittoria anche un pochettino più mia, anche se eravamo tutti amici ora della fine, quindi chiunque avesse vinto sarebbe stata per me una gioia. Ma cantavi in italiano o cantavi in finlandese? Non ho fatto in tempo a cantare né in italiano né in finlandese. Solo inglese? Sì, però okay. Sarebbe stato molto bello, penso, proporre un brano sia in italiano sia uno in finlandese. Certo, vabbè, insomma, comunque avrai sicuramente altre occasioni. Paolo, quanta Europa c'è nell'heavy metal e viceversa? Quanto l'heavy metal appunto ha una cultura, un percorso, un'origine europea? Ma sicuramente l'origine europea dell'heavy metal è situata in Gran Bretagna, da lì vengono alcune delle band più grandi di questo genere, i Judas Priest, i Deep Purple, i Led Zeppelin, i Black Sabbath e così via. Quindi sicuramente l'Inghilterra degli anni, fine anni 60, inizio anni 70 è il punto di origine di questo genere. Oggi direi che a livello europeo c'è una realtà molto, molto variegata e molto presente un po' in tutti i paesi d'Europa. Direi che non c'è nessun paese in cui non ci sia una scena metal più o meno sviluppata. Sicuramente il luogo di punta in questo momento è la Germania, anche perché le condizioni economiche in quel paese lo permettono. Chiaramente quando c'è un pochettino più di disponibilità economica, la gente può andare ai concerti, comprare dischi, permettersi magari strumenti per suonare o frequentare dei corsi, frequentare delle scuole. E credo che in realtà in grosso grosso sviluppo siano la Russia in questo momento e in generale i paesi dell'est europeo, magari più legati all'ex Unione Sovietica, a quello che una volta era il blocco dell'Unione Sovietica. Ho capito, quindi insomma da lì arrivano le novità. Grazie vero Paolo per aver condiviso con noi la tua storia, in bocca al lupo per la tua Summer School su Heavy Metal. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao, ciao, ciao. Europost-it. Erasmus Plus, corsi di lingua straniera online. State per partire per un progetto di scambio europeo, ma non siete sicuri della vostra conoscenza della lingua del paese ospitante? Il programma Erasmus Plus Online Linguistic Support offre la possibilità di seguire corsi online a quanti partecipano ad attività di mobilità a lungo termine. Il sostegno linguistico è disponibile in tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano e olandese e permette di migliorare le proprie competenze per almeno 2 mesi. Per accedervi è necessario effettuare un test di valutazione di comprensione orale e produzione scritta. Per saperne di più, collegatevi al sito erasmusplusols.eu. We launched Politico in the United States 8 years ago. We didn't know what it would become. It's been successful beyond anything we had imagined, but we did have an idea, and that idea was if you seek to dominate a story with the best reporters and the most intensive focus, you will succeed. What we care is that we are connecting with the most important people in the world of politics and policy making. Our ambitions for Politico Europe are to build. Le parole che state ascoltando sono quelle di John Harris, caporedattore di Politico.eu. Che cos'è Politico.eu, questa nuova testata che sbarcherà il 21 aprile in Europa? Lo chiediamo a un italiano che farà parte della redazione centrale, Jacopo Barigazzi, cofondatore dell'inchiesta e ora appunto reporter per Politico.eu. Ciao Jacopo, benvenuto all'Altra Europa. Grazie mille, salve a tutti gli ascoltatori. Allora, che cos'è Politico.eu e perché l'annuncio è proprio quello di rivoluzionare un po' la comunicazione dell'Europa? Politico.eu Europa.eu è la gamba europea di quanto fatto a Washington, dove politico.com è diventato il giornale di riferimento di tutta la politica statunitense, e adesso qua, dopo aver fatto questa operazione a Washington, si fa anche in Europa, a Bruxelles, con una differenza di fondo enorme, che in realtà appunto qua il giornale è americano, ma la redazione è composta da una ventina di nazionalità, siamo di tutte le parti d'Europa, non è un giornale americano a Bruxelles. Ma quindi l'idea non è quella di raccontare l'Europa agli americani, nasce per gli europei questa testata? Nasce assolutamente per gli europei, ed è per questo appunto che la redazione, la testa è composta in questo modo qua, ed è fra l'altro Bruxelles, dove c'è c'è abbastanza un vuoto da riempire. Quella è una capitale che non sa di essere ancora una capitale, fai conto che sulle macchine della polizia c'è scritto Bruxelles capitale, no? Cioè, non è ancora convinta, non sa ancora di essere del tutto una capitale, così come non lo sanno neanche molti cittadini europei, che in realtà il 70% delle norme che viene approvate dai parlamenti nazionali sono recepimenti di direttive e norme di Bruxelles. Quindi insomma il potere in qualche modo si è spostato, adesso i bottoni sono a Bruxelles, e noi stessi come giornalisti rischiamo spesso di descrivere il potere dove non è più, cioè appunto nei parlamenti nazionali, mentre la descrizione di quello che accade veramente a Bruxelles è ancora molto da fare. Certo. L'Europa è costruita in una maniera per cui ci sono questi poteri nazionali che hanno una faccia ma che non sono più poteri, mentre ci sono i poteri europei che sono veri poteri ma non hanno ancora una faccia. Ecco, uh-huh. Quindi anche da questo punto di vista politico riempirà un vuoto. Jacopo, ma tu per esempio racconterai l'Europa agli italiani? Cioè, l'idea è anche quella di avere, appunto, mi sembra che siate una trentina di giornalisti nella redazione centrale, più qualche sede nelle maggiori capitali europee. Qual è la chiave? Cioè, avere giornalisti di lingue diverse, di culture diverse, di origini diverse, proprio per parlare direttamente al proprio pubblico nazionale? Ma sì, al pubblico nazionale. In che lingua sarà intanto? In inglese, tutto in inglese. Tutto in inglese. Tutto in inglese. Sì, no, più ancora che il pubblico nazionale, il pubblico europeo è quello che ci interessa. Il pubblico, visto che appunto in realtà, fai conto, 5 anni fa sarebbe stato troppo presto, tra 5 anni sarebbe troppo tardi. Insomma, è adesso il momento in cui Bruxelles ha dei poteri, anche grazie alla crisi, insomma, grazie, tra virgolette, ovviamente, anche per via della crisi, i poteri di Bruxelles si sono molto rafforzati, e quindi insomma sì, il nostro pubblico è un pubblico europeo, non è che io scriva per gli italiani, scrivo per, insomma, al contrario, quello che mi interessa è l'impatto europeo delle policy e delle politiche italiane. Uh-huh. Dopodiché il grosso del lavoro di politico è tutto un lavoro solo di fare giornalismo, fatto in un certo modo, tutto molto inchiestistico, molto approfondito, con tagli nostri, insomma, da questo punto di vista credo appunto che lo spazio per questo prodotto ci sia molto grosso, e editorialmente è un bellissimo team. Dopodiché ci sono delle differenze ovviamente molto grosse tra Bruxelles e Washington. Certo. A Washington i funzionari durano 4 anni o 8, e quindi dopodiché devono tornare nel privato, e quindi hanno tutto un interesse a parlare con giornalisti. A Bruxelles ovviamente questo no, sono funzionari che sono lì con carriere permanenti, però contemporaneamente abbiamo 28 paesi, e i 28 paesi hanno culture molto diverse. In Polonia, se tu non fai vedere un virgolettato e dopodiché pubblichi quel virgolettato, ti possono fare causa e vincerla, perché così dice la legge. Quindi insomma ci sono delle regole culturali e nazionali che vanno ovviamente integrate all'interno di questo progetto e che appunto che lo rende ovviamente diverso anche in questo da quello che è da quello americano, perché appunto comunque qua la costruzione è molto diversa. Certo, politico.eu dal 21 aprile, c'è l'adrenalina della cosa nuova che sta nascendo, si sente Jacopo? Si sente molto, anche perché è una delle differenze, sì. Cioè, Bruxelles è un posto ha i suoi mille difetti, ma è un posto molto meritocratico, insomma, anche il parlamentare che arriva lì, se non sa parlare le lingue, se non si sa muovere, se non si sa prendere un'autorevolezza, finisce dopo 5 minuti, non conta più nulla e non vale, insomma devi essere sul pezzo, ecco, devi essere sempre sul pezzo in tutto, e questo vale giornalisticamente, vale per i parlamentari, vale per i parlamentari, vale un po' per tutti. Grazie, in bocca al lupo, sì. Jacopo, grazie davvero. Grazie a voi. Ciao. Adesso ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo qua con Enrico Brignano in tour per l'Europa. L'altra Europa. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. E continuiamo ad andare in Europa, lo facciamo con un viaggio strano, con un tour teatrale, un tour comico che debutta a Parigi il 21 aprile, sono quattro date, 21, 22, 26 e 27 aprile, Parigi, Londra, Bruxelles, Zurigo. Lo spettacolo si intitola Sono italiano ma non è colpa mia e il protagonista è Enrico Brignano. Ciao Enrico! Ciao, come va la vita? Molto bene a noi, ma anche a te. Grandi successi in questi giorni. Ricordiamo, fino a domani sei a Milano al Teatro Arcimboldi con Evolution, che è il tuo spettacolo. Però non ti bastava, sei andato oltre, varchi i confini italiani. Beh, l'ho già fatto, sempre da Milano. L'altro anno abbiamo poi imbarcato la scenografia e abbiamo portato Rugantino a Broadway. Certo. Quest'anno, insomma, andiamo un po' più vicini, ecco, andiamo insomma oltre confine, dai cugini francesi, poi andiamo dagli zii inglesi e poi andiamo dai fratellastri di Bruxelles. E dai cugini di secondo grado di Zurigo, insomma. Enrico, quindi... ma con che spirito parti? Con quello che vuole spiegare gli italiani agli stranieri, o vuoi capire qualcosa di più tu degli stranieri? No, e allora tendenzialmente vorrei capire bene chi siamo, dove stiamo, dove stiamo andando e soprattutto dove parcheggiamo. Il problema è che, consapevole del fatto che i peggiori detrattori del nostro paese siamo noi italiani, per cui noi facciamo della parola italiana maniera sempre con un'accezione negativa, in effetti insomma porto a quelli che vogliono venire, che insomma grazie a Dio già sono abbastanza, un po' di memorie italiane. Sì, d'accordo, siamo confusionari, non troviamo mai un accordo, cambiamo sempre idea, non rispettiamo i patti, siamo fuori dai parametri, non siamo più nemmeno in classe A, insomma, no? Però in effetti quello che vorrei dire per tutte le bellezze del nostro paese, per le potenzialità del popolo italiano, noi potremmo veramente ancora dire la nostra. E chiudendo poi il discorso dicendo che il mondo senza Italia sarebbe sicuramente un mondo peggiore, insomma. Certo. Questo lo dice la storia, non lo diciamo noi soltanto. Noi, nostro malgrado, possiamo solo peggiorare la situazione, ma il 70% delle opere d'arte del mondo sono nel nostro paese, non sono in Finlandia, insomma, non sono in Svezia dove il traffico è perfetto, dove c'è un tasso di suicidi molto alto, insomma. C'è molto da parlare, ecco. Certo, quindi con la leggerezza del comico, però insomma porterai anche un po' di indignazione, mi sembra. Insomma, non dico che vuole essere una denuncia la tua, però vuole essere anche uno specchio, una fotografia. Indignazione e orgoglio, più che altro indignazione per i nostri compatrioti politici, che in effetti sono gente scellerata, che non capisce, non sa. È gente che si accaparra quanto più denaro si può accaparrare in una vita e può servire per le loro generazioni future, perché costoro tra vitalizi e cose varie si prendono, non solo si prendono gran parte dei denari pubblici, cioè dei denari che servirebbero a vivere, si prendono il nostro entusiasmo, perché loro praticamente mettono sul piatto della bilancia solo un piccolo quantitativo di soldi che va a pagare i loro sontuosi stipendi, ma in effetti è il morale che della gente deve essere risollevato, perché tutta la gente dice: se loro rubano così, se loro si mangiano tutto, allora io che pago a fare le tasse? Allora io, no, sai, questa è la solita denuncia. In effetti può sembrare qualunquismo, ma è una grande verità. Cioè, la grande verità è che l'esempio deve venire da loro, da costoro che si fanno chiamare onorevoli, che invece di onorevole c'è poca roba quando vengono pescati sempre con le mani negli appalti, insomma, no? Certo. L'Expo, il MOSE, insomma, sì, la quotidianità che conosciamo bene. Enrico, parafrasando un po' il tuo titolo, se fosse un siamo europei ma non è colpa nostra, nel senso, tu che rapporto hai con l'Europa? È comunque un concetto che ti piace, che senti tuo? Beh, l'Europa sicuramente è un fatto. Noi oggi abbiamo una moneta unica, l'unica cosa è che non abbiamo una lingua unica. Abbiamo un passato da dover dimenticare, perché la Seconda Guerra Mondiale si è generata qui, insomma, a distanza di 1000 chilometri, c'erano veramente pareri contrastanti, ma soprattutto ideali sbagliatissimi, insomma, perché la Germania, che sta al timone di questa Europa, nemmeno 60 anni fa aveva al timone qualcuno di completamente sbagliato, e noi l'abbiamo seguito a ruota. Quindi, insomma, non possiamo essere lontani da questi pensieri. Certo. Però l'Europa deve essere un punto fermo, nel senso che è l'unico posto dove si può, è l'unico posto dove si è generata gran parte della cultura mondiale, è l'unico posto nel mondo dove, insomma, tanti passaggi li abbiamo già vissuti, e unirci in una, quasi in una nazione ipotetica, comunque serve per contrastare la globalizzazione che ci manderebbe al macero, insomma. Noi lo vediamo con la moneta unica. Oggi sicuramente l'euro ha un valore diverso di quello che poteva avere la lira a suo tempo. Io ricordo quando cambiai le lire con le sterline, insomma c'era quasi niente. Con i dollari, io ricordo quando il dollaro stava a 2000 lire, noi eravamo in piena recessione. Le cose sono leggermente cambiate. Se riuscissimo ad avere un po' più di omogeneità, riuscissimo a volerci un po' più bene con i paesi confinanti, sarebbe meglio. Il fatto è che pochi anzi hanno stima delle nostre capacità di italiani. Quindi io lo dico senza fare politica, per carità, però dico alcune cose, insomma, che noi siamo stati coloro i quali hanno fondato la prima banca e l'hanno sicuramente anche rapinata. Siamo i primi a aver creato la cambiale e anche a non pagarla. Siamo quelli lì, insomma, genio e sregolatezza. Certo, si gioca un po' su quelli che, ahimè, non sempre sono solo stereotipi. E Parigi, Londra, Zurigo e poi Bruxelles, insomma, vai proprio nel cuore dell'Europa a sì, raccontare l'Italia. Anche della finanza europea, dove si cerca di fare, no, di unire l'Italia, insomma, come una sorta di piccolo garibaldino. Però insomma, sono contento, anche perché porto quello che so. Prima insomma, era cercare di accaparrarsi, che ne so, la piazza italiana, se non andare in una in un'altra città. Invece qui si tratta di portare spettacolo per quegli italiani che sono anche all'estero e che hanno magari qualche nostalgia della lingua italiana, hanno nostalgia di un'idea diversa, insomma. Mangerai all'italiana in questo tour europeo o sei uno curioso quando viaggia all'estero? No, io sono molto curioso. La cosa peggiore che può fare un italiano è tentare di mangiare la matriciana a Bruxelles. Io non credo che ci, insomma, no? Allora, lì bisogna darsi pace. Il cibo italiano conviene mangiarlo in Italia, a meno che a Bruxelles ci sia un bravissimo cuoco italiano, ma ci sono, perché sì, guarda, sì, ci sono. Ne è pieno il mondo. Però è bello anche italiani. È bello anche contaminarsi con i sapori, gli odori altrui. Ma certo, certo, non più di tanto, se no facciamo i piatti unici che si mangiano i turisti quando vengono da noi, che mangiano le polpette col sugo, la marmellata e il cappuccino, che poi noi italiani diciamo, ma se ti prende una colite che è colpa nostra, capito? Insomma. Grazie davvero Enrico, in bocca al lupo per questo tour. EnricoBrignano.it è il sito per tutte le informazioni, divertiti, che per fortuna insomma la risata è un linguaggio universale, non ha bisogno di traduzioni, quindi sarà sicuramente una bella esperienza. Ciao, grazie, buon sabato. Ciao, grazie a voi, un salutone, ciao ciao. E questo salutone va anche a tutti voi, un grazie alla squadra dell'Altra Europa. Pietro Lacorte oggi ha giocato con i tasti, in assistenza Claudia Schiattone, invece la scaletta è stata realizzata insieme a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini. Radio24.it è il nostro sito, da dove potrete riascoltare la puntata o scaricarvi il podcast. L'Altra Europa @radio24.it invece è il nostro indirizzo di posta elettronica. Se volete contattarci sui social, @ Federico Taddia, vi ricordo sul sito la sezione extra dove potete riascoltare tutti gli Europost-it. Questa è L'Altra Europa, buon sabato, ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.